Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo due informazioni di servizio. La prima è la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda è il nostro sito radio24.it, all'interno del quale potrete trovare e scaricare tutte le puntate pressoché in tempo reale, sentirle anche attraverso abbonamento via podcast, e potrete leggere anche i blog degli autori. Se andrete sul mio troverete Guardie o Ladri. Cosa ho messo in linea esattamente ieri, giovedì 11 febbraio? Ho messo in linea la relazione in esclusiva del prefetto di Milano Gianvalerio Lombardi, che tanto ha dato luogo a polemiche, perché quello che è stata la sintesi giornalistica è stata: il prefetto di Milano nega l'esistenza della mafia a Milano. Ebbene, leggendo ampi stralci di questa relazione che ho messo sul mio blog, vi renderete conto invece che a Milano la situazione è devastante dal punto di vista dell'infiltrazione delle mafie, in primo luogo della 'Ndrangheta. Del resto, prima di lui l'hanno detto anche Ferdinando Pomarici e tanti altri magistrati, solo per rimanere agli ultimi giorni. Allora, oggi parliamo di mafia a Milano. Con chi? Innanzitutto con Giulio Cavalli. Lo conoscete, conoscete anche il suo sito internet giuliocavalli.net, autore e attore teatrale impegnatissimo contro le mafie a Milano e in Lombardia. Lo abbiamo avuto già nostro ospite. Ebbene, Cavalli ha ricevuto ancora una volta una minaccia molto molto pesante: 23 proiettili recapitati a domicilio. Un simpatico omaggio e un simpatico ringraziamento a chi dice che a Milano la mafia non esiste. Quindi noi l'abbiamo ospite per farci raccontare la sua esperienza recente. Buongiorno Cavalli. Buongiorno a voi. E poi abbiamo in linea Nando Dalla Chiesa, che è un sociologo, presidente onorario di Libera, quindi un'associazione straordinaria e meravigliosa. Buongiorno Dalla Chiesa. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Giulio, iniziamo da te, ci diamo del tu, lo dico anche ai nostri radioascoltatori perché ci conosciamo. Puoi per piacere descrivermi e raccontarmi i momenti che tu stai vivendo personalmente, paragonati al momento che sta vivendo questa città, che si avvia allegramente ad andare verso la grande mangiatoia, così come l'ho descritta più volte, di Expo 2015. Prego Giulio. Ma guarda, io tendo sempre a spersonalizzare gli eventi, nel senso che secondo me dobbiamo prenderci tutti la responsabilità di leggerli, non per creare protagonismi, ma per raccontare una situazione. La situazione è che a Milano, nella civilissima Milano, succede che un lavoratore, al di là del fatto che io sia un attore e autore e scrittore, si ritrova a non poter lavorare per 23 proiettili fuori dal proprio posto di lavoro. Sono 23 proiettili che poi in realtà seguono al ritrovamento di un altro proiettile in un altro mio ufficio su Milano che frequento, e altri messaggi lasciati comunque su alcune auto in sosta sotto forma di messaggi anonimi. Assolutamente. Ecco, io Giulio vorrei farti questa domanda: al di là del circuito di legalità che è composto dalle associazioni, che è composto da chi come me e come tanti altri colleghi si occupa da anni di legalità e di criminalità organizzata, insomma al di là di quelli per cui è facile testimoniare, no, la propria solidarietà perché a loro volta oggetti di minaccia o perché comunque quello fanno di mestiere, ma la città secondo te come sta reagendo? C'è ancora questa sordità, questa cecità che a mio giudizio esiste da anni, oppure tu credi che effettivamente stia cambiando qualche cosa? Guarda, io vedo nelle scuole, tra i giovani, vedo una voglia, un'energia e se vogliamo anche una curiosità che è assolutamente meravigliosa. Poi ci sono invece un po' di milanesi afflitti dal lombardismo, quello narcotizzato, no? E quello ignorante intenzionalmente sul tema, per cui hanno, ovviamente hanno gioco facile nel segnalarci come allarmisti o se non addirittura come intimiditi per marketing. Esatto. Io sono comunque molto ottimista. Ecco, allora io direi, ciascuno di voi, cari radioascoltatori, si può fare la propria idea, basta andare sul blog Guardie o Ladri e leggete quello che scrive il prefetto. La sua relazione era riservata, segretata, ne sono venuto comunque in possesso e vedete che ci sono dei fatti, e i fatti non sono opinioni, ci sono decine e decine di famiglie di 'ndrangheta, c'è una suddivisione del territorio a Milano nell'Interland milanese, c'è un grido d'allarme spaventoso su quelli che sono i trucchi usati dalle cosche sugli appalti, ad esempio lo sminuzzamento in maniera tale che si va sotto soglia e quindi si fa meno di presentare il certificato antimafia. Insomma, è una situazione che secondo me parla da sola. Nando Dalla Chiesa, il suo giudizio? Il mio giudizio è che da troppo tempo si dorme su questa materia. Se uno riguarda la quantità di fatti che sono accaduti, ma anche i tantissimi processi che ci sono stati a Milano, in Lombardia, alle inchieste, ma anche agli atti ufficiali, cioè la Commissione parlamentare antimafia, sia a guida di destra sia a guida di sinistra, ha detto le stesse cose sulla 'ndrangheta italiana e lombardia. Assolutamente. Dalla Chiesa, lei sta portando avanti anche dei progetti molto interessanti che coinvolgono la società civile, ce ne può parlare? Noi stiamo cercando con Libera, la scuola Caponnetto, di fare una attività di formazione. Facciamo ogni martedì sera. Benissimo, ogni martedì sera. Anche qui ricordo il sito di Nando Dalla Chiesa, nandodallachiesa.it, e lì potete andare a trovare anche l'elenco degli appuntamenti. Sentite la linea un po' disturbata perché Dalla Chiesa si sta spostando in treno e ahimè la copertura è quello che è. Cavalli, io direi di tornare a te. Allora, puoi parlarci un momento del tuo ultimo spettacolo, come profilato, dove lo stai portando, che tipo di accoglienza sta ricevendo? Ma guarda, in realtà la cosa poi abbastanza particolare e curiosa è che io in questo momento sono in scena con l'unico spettacolo di cui non sono autore, perché ne è autore Dario Fo, che in realtà non tratta temi di criminalità organizzata. Per questo io cerco di raccontare quanto il segnale probabilmente ormai si è rivolto alla persona e non a ciò che racconta sul palcoscenico. È uno spettacolo sull'ambiente, è uno spettacolo sull'irresponsabilità dei governi nei confronti dell'emergenza ambiente, sul PM10. Dentro sì, facciamo un passaggio sulla vicenda dei rifiuti su Napoli, raccontiamo del racconto dei fatti del pentito Vassallo e Bidognetti che ci raccontano le logiche di questo governo ombra in Campania gestito dai casalesi. Ecco, io direi che comunque la domanda è volontariamente fatta in questo modo, perché Giulio, perché comunque sia il tuo è un racconto di legalità, ciò che sta venendo meno come collante per questo benedetto o maledetto paese. E bene fai a sottolineare il fatto che tu ormai sei diventato un simbolo di quella che è la lotta all'illegalità, e questo una città come Milano deve capirlo. Siamo in situazione di par condicio, come sai Giulio e come sa perfettamente anche Nando Dalla Chiesa, quindi non possiamo far riferimento ad alcun, come dire, momento amministrativo o politico. Ti chiedo però questo, Giulio, a tuo giudizio, generalmente in Italia e soprattutto nel nord c'è una sensibilità a quanto sta accadendo, a questa linea della Palma che si sta alzando, come diceva Sciascia a proposito proprio della mafia che sta risalendo la penisola, oppure le amministrazioni, non me ne frega nulla di quella di Milano né delle altre che vanno a voto, Milano non va al voto ma va a voto la regione Lombardia, ecco, questa sensibilità a tuo giudizio c'è, oppure ancora anche lì come la società civile dura da venire, di là da venire? Ma guarda, credo che la risposta migliore sarebbe che Nando raccontasse quali sono le difficoltà, ad esempio, che Libera sta avendo in Lombardia per organizzare la propria giornata nazionale in marzo. Sicuramente non c'è responsabilità, non c'è la voglia di sollevare il problema e c'è questa mania che io speravo superata nel credere che raccontare questi fatti voglia dire aver voglia di sporcare l'immagine di una regione. Assolutamente. Allora noi rimandiamo al momento in cui saranno terminati i cartelli elettorali e quindi si potrà tornare a parlare anche con i politici, rimanderemo a questo momento. La cosa che ci ha detto Cavalli, cioè la difficoltà che ha Libera nell'organizzare la sua manifestazione, la giornata in memoria delle vittime di mafia che si svolge sempre nel giorno di primavera, quindi siamo a marzo e quest'anno dovrebbe essere a Milano. Lo ringraziamo per il suo intervento, così come ringraziamo anche dalla Chiesa. Ringrazio in regia Filippo Oreggi, in studio Elisabetta Fusconi, e vi ricordo il blog Guardie o Ladri, se volete leggerne delle belle sulla presenza della mafia a Milano e in Lombardia, leggetelo e poi commentatelo. Grazie ai nostri ospiti e buona giornata a tutti.